No, sto facendo con il presidente, c'ha 10 watt. No, se 9,20 spaccato con i picchi vai anche oltre. Io come ti arrivo dalle tue parti? 9,20 lo stesso. Ok. Natale, ci sei ancora? Sì che ci sono ancora. Volevo sapere dove reperire quelle chiavette, perché se non la trovo me la devo comprare. Poi mi porto una chiavetta, mi porto per farmi mettere i programmi lì e me lo schiaffo io nel computer, non c'è problema. Allora, se vuoi ti do il riferimento, loro l'hanno comprato da questo radioamatore, se ti vuoi scrivere il numero te lo do a voce, un radioamatore di forse Reggio Calabria, eccetera. Queste chiavette qua. Quello che l'ha presa lui si chiama questo qua, Francesco Tucci, questo radioamatore. Chiavetta SDR, c'è scritto radio scanner, RTL 2832, ricordati 2832 mica è importante, se no non funziona il programma. Ho capito, Francesco. Tucci, la paghi direttamente e te la manda lui, mi sembra questa una trentina di euro, chiedi un po', se no ci su internet ce ne quanto ne vuoi, però questa funziona benissimo. E ti do il numero di telefono se vuoi scrivere. Dimmi chiavetta SDR. Allora, deve prendere RTL 2832U come tipo di coso. E poi c'è il tipo esatto è R820T2, proprio il modello esatto. Modello è R820 Torino 2. Segnati il numero di telefono così quando c'è tempo lo chiami. Chi sei? Vai. Ah? Sì, vai. Allora, 339. Vai. Poi 70. Vai. 87. 385. Francesco Tucci, questo è un radioamatore che vende queste chiavettine, non lo so cosa se le distribuisce, non lo so. No, 339 70 87 385. Ha ricevuto. Ok. E mentre a me ne ha dato una, mi ha detto te la regalo, non ti preoccupare, te la usiamo la regale, la uso. No, no, prendita. Questa che c'ha lui è ancora meglio, questa che mi ha dato Sergio. C'ha DVB, il DAB, addirittura c'è anche il DAB, FM, SDR. L'ha presa da poco lui. C'ha sino a 11 giga, anche satellite fa questa. La vedo, me lo puoi dare a vedere se la reperisco. Aspetti, faccio la foto, Mari, però no, vabbè, ma tanto non fai niente con questa roba, con la foto c'è scritto DVD più terrestre, più DAB, più FM, più SDR, c'è stampigliato, non c'è nessuna marca né niente. Adesso guardo se la trovo. Ma chiama quello lì, che è quella che c'ha coso, è bellina. L'unica cosa, non so se l'abbiamo modificato, c'ha un innesto particolare, SMA dovrebbe essere, per attaccare l'antenna, non è attacco tipo TV, quelli classici, come c'hanno le pennine normali, infatti è un po' difficoltoso, dai, ti devi fare un adattatore, per metterlo non è semplice, ti devi saldare qualcosa, comunque si può fare tutto. Ok, Marino, ci sei ancora? Nulla, Tore, avanti a te il mic. Che forse una di quelle chiavette lì ce l'ho anche io, ce l'ho. Se si attacca a una specie di attacco dietro, come la TV, l'attacco TV, però è diverso. Allora anch'io ce l'ho una, l'ho presa nel 2009 appena avevano aperto il digitale terrestre per mettermelo nel computer, la TV funzionava, però siccome c'è un'applicazione per vedere, sentire anche le radio devi fare un punticello dentro, c'è una saldatura un po' complicata da fare, perché bisogna fare con saldature di precisione, e ha provato col software che c'ha lui, ma non siamo riusciti a aprirla, per cui la lascio stare normale, però si trovano tutte le parti, dai 25 euro in su ce ne sono tutti i tipi, poi ci sono quelle più evolute, ce n'è una costa 120 euro, addirittura c'ha due sintonizzatori separati, è molto molto bella, l'ho vista, però per il momento uso questa che mi hanno dato, poi si vedrà più avanti, però con quella c'hai tutte le funzioni possibili e immaginabili, puoi manipolare tutti i tipi di modulazioni, di segnali, in qualunque forma di segnale, anche quelli criptati eccetera, puoi fare, c'è un sacco di roba. Quella del ponticello, quella l'ho fatta io. L'ho fatta, mi è uscita benissimo, infatti le prendo parecchia roba, prendo con quella lì, ho preso la TV, poi dentro lì mi aveva detto, dice no, guarda, devi fare come, mi aveva mandato lo schema, l'avevo modificata, la prendevo tutto, però non so dove ci sia uscita adesso. Ma c'è l'applicazione, c'è il dischetto di installazione o che cosa? No, con quella chiavetta lì, c'era l'applicazione, c'era. E ho fatto il ponticello anche. Ah, quindi l'hai fatto direttamente, da ti hai scaricato il programma, dai, no. No, quella che c'avevo io c'era proprio il dischetto, ti davano in dotazione per caricare tutto, ma ti ripeto, stiamo parlando 12 anni fa, nel 2008 mi sembra che l'ho preso, appena aperto il digitale terrestre, era proprio una delle prime, infatti adesso sarà super, come si chiama, superata, adesso c'è molto di meglio. No, questa qua fa da 0 a, con questo programma qua, fa da 0 a 11 GHz, fa anche i satelliti, infatti sono rimasto a bocca aperta, è micidiale questa, probabilmente è l'ultima evoluzione che hanno fatto. Sicuramente sì, no, anche io ce l'ho da quando, dal 2008 ce l'ho. No, la chiavetta non so dove sia, però il dischetto mi sembra che già ce l'ho. Sì, ok, vediamo se c'è Marino ancora. Era Marino quello che parlava prima, perché molte volte mi confondo, si assomiglia a un'altra persona. Marino, eri tu quello che ha chiesto del programma CB. Marino mi sembrava. Natali, confermi. Lo stavo seguendo, sto guardando roba sul computer. Comunque l'ho trovata quella chiavetta. Sì, sì, ce ne sono tante, anche su Amazon, vedi, ce ne ho trovato una, la migliore di tutti, diciamo al discorso di prezzo la più bassa di tutti, però c'ha una cosa un po' più complicata, perché se no se prendi quelli per Sirius, quelli costano 700-800 euro, quei ricevitori, diciamo, per uso amatoriale, dai, con le scatolette, dai, che sono molto più sofisticate. Queste per livello di divertimento già vanno più che bene. Ne ho trovato uno a 129 euro, è un doppio sintonizzatore, puoi fare due cose in contemporanea, scansiona due ricevitori separati, cioè quello è molto bello. Poi alla fine mi è capitato sotto mano questo programma, per cui ho detto no, per il momento lasciamo stare così, dai, mi diverto con questa, poi se ci sarà ancora voglia e mi voglio evolvere più avanti ne parliamo. Ok, vai Natale. 2832 è questa qui che stavi dicendo tu. Ci deve essere 2832, poi c'è la U, la versione U, se c'è l'ultima che c'è, ma fa tutto. Aspetta, però ce ne sono diversi tipi, ci sono quelli, devi metterti in programma, perché se tu la installi così sei limitato a certe cose, ti fa solo certe cose. Se vuoi ascoltare anche cose un po' più particolari, magari devi mettere un software particolare per certi tipi di modulazioni e cose, diciamo, ma va più che bene, per l'uso normale va più che bene, però magari se devi fare satelliti o cose strane, dai, è meglio metterti il software suo dedicato. Ma poi è bello per dirti, mentre ne vai sulle radio private, dai, ti dice anche la canzone che stai ascoltando, c'ha l'RDS, c'ha tutto, che canale è bellissimo, c'ha tutti i tipi di informazioni di coso, anche lo strumento indicatore di potenza, se lo vuoi in decibel te lo dai in decibel, o se no te lo dai in microvolt, è bello, interessante. Analizzatore di spettro, forma di onda, ti dà, eccetera, le informazioni della modulazione, eccetera. Entra su internet e vedi un po' di cosa si tratta, perché tanto ci sono le prove, vedi un po' come si comporta, ci sono questi che le hanno già acquistate, c'è di tutto e di più, dai. Ok, vediamo un po' se su 10 è entrato qualcuno, tanto io sto facendo ancora ora prima che mi chiamino per mangiare. Attenzione, canale 10, chi vuole entrare in compagnia di Roberto, Natalino e Tore, poi credo che c'era anche Marino, non so se ci sei ancora, avanti chi vuole entrare. Questo sono in banda laterale, nulla. Oh, un attimino di bianco a me, arrivo subito. Hola Luca. Sì, sono diventato, chi sei? Aspetta un attimino che stanno parlando. Cosa hai detto? Stai provando la radio di ieri, Antonella, va? Sì, sì, molto meglio. Il segnale è un po' più basso, sei Santiago 8, la radio è 5 comunque. Non è fortissima, però è comprensibile. Ok, c'è in compagnia mia, Natalino, Tore, poi c'era un altro dal segnale, credo che sia Luca. Avanti Luca. Va benissimo, non ti preoccupare, ottimo. Ok, aspetta, facciamo riprendere a qualcuno, c'era un segnale molto forte. Avanti, chi fischiava? Non lo so. Ok, riprendi Tore tu. Io non ascolto neanche l'amico basso, non ascolto neanche. Vabbè, io ve lo devo lasciare. Ciao Natalino, non mi metto bene il nome, il tuo nome. Vabbè, io ti saluto lo stesso. E agli amici che sono in frequenza all'ascolto. Ci sentiamo magari stasera. Ok, ciao. E a Roberto comunque Tore, dai, da questa parte, mi hai sentito anche a te. Buona carica, buon tutto se devi farlo. Avanti Natali. E ciao Tore, dai. Eppure me ne passo in quel rettico. C'è anche il cane, sta facendo casotto qua. Ciao. E ciao Natali, mi hai sentito anche a te. Dai. Facciamo riprendere a Antonello Barracuda. Antonello, dove sei? In che zona sei adesso? Assolutamente, radio 5, segnale 8, cioè diciamo appresso c'è un po' di corremma dietro, ogni tanto si tira qualche propaganda, ma ti ascolto perfettamente. Ok, però il segnale tuo è molto più alto, è normale, forse è questo tira meno watt rispetto all'altro. Mi hai ascoltato, Antonio? Adesso ti sei abbassato tanto, sei Santiago sì, adesso come mai? Allora, sì sì no, adesso va bene, scendi da 6 a 8 con un watt, forse c'è un watt, sei 6 e con 3 watt arrivi a 8, la radio è 5, un po' si abbassa quando ti abbassi il segnale. Ok dai, va benissimo, dai, piano piano si sistemano tutte le cose. No, ieri eri proprio quasi, non riuscivo a capire chi eri, era una voce talmente strozzata a Paperino, non riuscivo a capire chi era, adesso sta andando molto meglio. Ok, vediamo se nel frattempo qualcuno, purtroppo c'è tanta propagazione, stanno parlando uno sopra l'altro in banda laterale, FM. Se c'è qualcuno su 10 che vuole entrare avanti, se no anche io rimango in corre X. Ma te ne ha la minima, e io già va bene, dai, ti tiro fuori anche qualcosa, a minima potenza, anche se devo dire c'ho il cuore è molto alto, sei in mezzo al correme però ti tiro fuori lo stesso. Ok, ma va bene, la radio è pulita, chiara, va più che bene. Adesso mettici un'antenna decente e vediamo un pochettino, magari te ne sali in qualche punto alto e vedrai di fare qualche collegamento pure tu. E adesso ti sei abbassato di segnale pure un pochettino, quasi 9. C'è un po' di confusione, purtroppo si scavalca ogni tanto i segnali. A me mi ascolti bene comunque, Antonio. Non ho nessuno, non mi porta presso niente di mondezza, diciamo, di propagazione. Questo è arrivato 9 più 10, questo brecco, però forse è in FM. Avanti il brecco. Scusa Antonio, cambio commuto in FM, scusa un attimino. Tu l'ha chiamato, ha disturbato e se n'è andato. Brecco, brecco e non entri. Mi sbaglio, faccio un giretto qua nei canali, Antonè, se ci sei ancora qui ci sentiamo dopo.